tuoi ricordi troppo mi far geloso. Ciò che mal può recarti il creder cose che a me dan scorno e a Cleonin l'offesa. Signor, io fede, pria che d'altro mi parli, a me ne venga tosto qui Caio. Il tuo gran cenno ad esempio, otton per troppo amor reso è già scempio.